Salve a tutti, ho sentito mio fratello Mattia dal carcere di Ascoli. Mi hanno detto che sono tutti insieme a me nello stesso posto, ma non si possono assolutamente né guardare né parlare. Mi ha detto che le celle sono completamente sporche, con le finestre rotte e hanno solo un cambio e una coperta. Stanno morendo dal freddo, non li hanno picchiati, non gli hanno fatto niente, ma si stanno ammalando perché sono alle intemperie. E ha detto che però tra 10 giorni li vogliono trasferire ad Ascoli. Sono venuti a Modena soltanto per parlare con il procuratore e rimandare indietro. I ragazzi non vorrebbero, se ho capito, tornare indietro. Non vogliono stare neanche a Modena se devono stare al freddo e al gelo, però rimanere qui vicino. Questo per quello che mi ha detto mio fratello, mi ha chiesto di supplicare. Adesso lui subito domani mattina nomina Mario Marcuz come avvocato. E ha detto alla mamma di Ferruccio e alla mamma di Claudio che domani in giornata chiamano anche i loro figli, li chiameranno. E questo è quello che so. Loro non sono stati picchiati, però le condizioni igieniche, perché l'acqua devono bere quella del rubinetto che viene fuori gialla, non gli passano niente. Sono al freddo. Mio fratello addirittura si sentiva che stava male, che secondo me iniziava ad avere la febbre anche. Comunque, questo è quello che sono riuscito a sapere da lui ora che mi ha chiamato.